allora, che si dice? Attenzione, Claudio Salviero, attenzione, Natalino, attenzione, Marco, Seri Gugurali, attenzione, Gabriela Buiz, Massimo Borgozzo, tutti i coraggi di Zidi. Cambio, Caolixi, cambio! E allora, Claudio Sparviero, cambio! Aspetta, una collina conda, sì, una collina conda, sì, vediamo qua. C'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. Attenzione, canale 10. No, oggi ho dormito il vostro, guardato un po' di sport e boh, mi sono seduto adesso qua. Cos'era? Diarrea? Alle tre. Non entra nuda o entra l'ora degli addini? Guarda, è già entrata, è e cosa? Sì, ciao Francesco, buona Pasqua. Sì, siamo sentiti stamattina con Antonino al telefono. Lavoro. No, io sono rientrato all'una e mezza neanche. Sono uscito presto oggi. Ho usato e poi mi sono messo a guardarmi la TV, un po' di lo sport, dai. Mi gioco dormito a riposarmi un po', perché sennò è un casino, se non recupero in questi giorni, capito? Tanto non c'è andare lungo, quindi assolutamente. Buona giornata a casa e basta, non vorrei andare nessuna parte. Lunedì si lavora di nuovo, quindi lavoro anche tutto il giorno, non solo, perciò non è che abbia tante prospettive da andare e tornare. No, il ragazzo di cosa? Di Bernarda. Attento ragazzo di Bernarda, ci sei? Mi ha avuto il vecchio che me ne dimore. No, ma regato. E lui sta sempre inventando lavoro, capito? E non per altro, è un preghiero. Ho dato grandi frutti. La maglietta maggiù. Ha regato la fragola e panna e croccantini, boh, quasi poco di cosci. Vai, portati tu. No, lei è tipo un semifreddo, una cosa del genere. Fa sempre queste cose, capito? Se lei le fa, le fa anche lavoro. Quindi va bene. Vabbè. Che cosa ci vuoi fare? Io andrei con Marco, mi piace di tutti i pasticci, un gatto, catetta, rattetta. E sicuramente perché ieri è andato alla città mercato a prendere due cosette, capito? Ma era comprato lo Kinder e è andato a buttare via. E allora, vuoi che non le porti l'uovo la sua ragazza? Per forza, se no è un casino. Perciò sicuramente a Patamoa. E misurate quelle tappe da quanto sono, accoppiandogliela, mettendogliela una vicino all'altra, quanto riusciamo ad avere? 2. 60 centimetri. Da 10 centimetri una so, così corta. Che se no vorrei via. E la tappa bisogna aggiungere 3. Vedete, ne hai preso 6, così è. Va bene, aggiungiamo 3, guardate se ne avanza una per l'altra antenna. Non c'è problema. Capito mia? Se no usiamo quell'altra, che è più lunga, c'è il braccio più lungo. E quella là la aggiungiamo a quella e va partita. Andiamo a mattare. Bene. l'hai aperta l'antenna, certo, per vedere se c'era tutto dentro, no? Non hai controllato nulla, magari manca anche pezzo, ma te di, se non te ne mandano più. Ah, vabbè, ce la controlla Marco che la conosce. Massimiliano, io con l'antenna non la conosco. L'ho vista montata, ma non la conosco come antenna, capite? Allora, lì, quando a me mi è arrivata la prima antenna, mancavano due isolatori, capite? Non ho potuto montare l'antenna, sto parlando della direttiva, due isolatori, di quella dei 40, due isolatori mancavano. Chiamare e dice evidentemente con la fretta non li ho messi dentro, e quindi non ho buttato un terra a terra, quindi può succedere, non è che non può succedere, perché tu hai ragione, dovevo preparare i pezzi, i tagli, tutto, capito, soprattutto lì dove l'ho comprata io. Ad esempio della mantova mi mancava, non ho rinato la mantova, mi mancava la fascetta della spirale, sai, c'è quella fascetta, no, che si aggancia, mi mancava una di quelle fascette, fortunatamente ne avevo una io dell'antenna vecchia, l'ho tutta pulita, capito? E ci ho messo quella, meno male che era un pezzo, insomma, che si trova là. Thank you. ci vediamo, per me va bene, cioè le tonalità medio-basse, gli alti si sentono, l'amplificazione c'è, per me va bene così come regolata, non c'è il problema è Marco che siete molto vicini, capite? Arrivi 9.15, quasi 9.20 con l'antenna della macchina, immagina c'è di campo buone antenne, e quasi 9.05 con l'antenna della macchina, che ne dicano, però per me quella zona è ottima, è molto buona. E il pubblico vi rifai, sono giù l'ho detto battente, perché dove ho messo l'antenna, l'ho vista con i miei occhi arrivare qua, 9.05, vuol dire che per me tu sei molto molto favorevole, capito? Poi hai visto che arrivi anche agli punti, come ho messo l'antenna, a volte arrivi anche da Eugenio, sei arrivato da Franco. C'è nulla di male a te, un che si antenna anche si condiziona, arrivi a Sciusso. Ciao Natali, ciao, buona passeggiata, saluta a tutti, ciao. Hola, c'è qualcuno qua? Hola, hola. Marcolino. Genio. Oh, tornato Gesù. Ora. E anche io non ci sono a portare a Pippo. Adesso si è cliccato un pochettino. Non ci mi sono cominciato pure io. Che so, è 8. Però non c'era, non so se è entrato qualcuno. Cosa vai a bordo? C'è? Cosa c'è? A me sarebbe andare così. Non è che agli Valdenzia a me ci voglio andare e beh, è che ho avanti ehi, io non guarderò qualcosa alla TV domani finalmente il boscio mi sa, vabbè io già cubisurà anche se domenica, domani no? Io fino alle 8 non ci riesco a stare a letto, capito? Quindi ho già preso la se trovo un bar aperto è tutto chiuso la mano. E dove vado io a Ginepro per la prima volta, non so se è aperto. Stamattina sono andato a prendere le sigarette a fare colazione, gli ho detto se era aperto domani, ma detto no, siamo chiusi domenica e lunedì quest'anno. Ha detto, allora è di una peggiore. No, Natalino, proprio uno di due, assolutamente, quello che c'è in fondo, il vicolo di cinesi, in su, tutte le feste chiude, non ne frega niente, e Rosi al bar del quadrato mi ha detto che chiudeva domenica, non so se è aperto lunedì, ma penso domani sia chiuso, non c'è problema, c'è da San Giovanni, non ti vedo, pensi, inizio già non sarà mai, San Giovanni già non chiude mai. Il vitrino, il vitrino. Si mi chiama i punti. San Giovanni lì. Capito? C'è tutto il bar, tutto l'altro per edicola, tabacchino, tutto. Ok, quando sta parlando Natalino, non a Taravozzi, se no non comprendo nulla. Cosa hai detto Natalino? Non posso confermare, ma che cosa? Ma non l'ha lottato così che andava al mare, sì, è un bel bar, grande, pulito, capito? Non c'è problema. Poi ci vado solo quando sono libero, la domenica soprattutto quando sono libero, se no non ci vado mai perché fuori mano, capito? Questo Marco deve essere impegnato proprio, non senteggi tutta la rioci. Vediamo a mandarle un coso, come si dice, un messaggio. No, deve avere il telefono spento, perché mi dà un baffo solo, non l'ha neanche ricevuto. Nulla. Ma gli dico che c'è vivo. Ho preso questa macchina, non mi chiamare, quella offre, la mossa è. Quella tutto vivo. E chi? Bellissima, sì, è molto bella. c'è la benzina. Camper, capito? Gappa. Va fare shopping nella Costa del Sole a Cagliari, proprio a Cagliari, vicino a... Sì, alla città mercato di Cagliari, così chiamata. No, la Costa del Sole, diverso. Sì, ho capito. Si compra bene lì, vero? Caspita, tutti i negozi sono outlet, roba di marca, bella, bella. E si compra veramente bene. Sì, intanto vado alla fiera io a maggio, quindi vado alla fiera del... devo prendere un regalamento, capito? No, e quindi vado lì alla fiera, si compra molto bene. Ci faccio un salto a vedere. Cioè, mi ha detto mia figlia, per l'ultimo mi ha detto, sì, c'è un po' di roba bella. Sì, figurati che io avevo la chiave del furgone rotta. Sono andato alla Peugeot e ne volevano 181 euro a birra. Sono andato lì, ho trovato uno che fa le chiavi così, aveva in vetrina una cosa che gira un tipo da chiavi. Sono con la testa e per una marea di chiavi, di Mercedes, di Peugeot, di tutto. Sono entrato la giaunta a 30 euro e mi ha giubilato subito. Ma un portachiavi della Mercedes? No, il portachiavi della Mercedes, la chiave del furgone, 30 euro pagata. 30 euro, cosa che la prigione vuole con 171 più euro. Allucinante. Caspita. Ehi, ma anche in fiera si trova un sacco di roba. Io devo andare esclusivamente perché devo prendere quasi un allevamento completo, quasi. Quindi vado in fiera perché risparmio tantissimo. Però anche in fiera ci sono degli stand dove c'è un sacco di roba. Però lì dove sei andato tu, mia figlia, che non c'è stata. Quando è andata lì a vedere Cagliari Juventus. E siamo fatto un giro di col ragazzo e mi ha detto si compra molto bene, c'è un po' di roba bella. C'è un sacco di roba bella e si compra veramente bene, perché sono tutti outlet, c'è l'Adidas, c'è la Nike, c'è la Puma, tutto. È un bellissimo, si mangia dentro, è un bellissimo centro commerciale, pieno di negozi. E si compra, ti ripeto, veramente bene. Io ti ripeto, ho preso la chiave del furgone nuovo, del Peugeot, 30 euro. Alla Peugeot ne volevano 171 più euro. Figurati. Figurati tu. Natali, lo senti a Regi? Ma sono là. Cazzo, mio padrino mi ha mandato un video che mi è morto. E su di là è... non c'è quello. Grazie ciccione, ciccione. È un bulldozzo, non c'è? È un bulldozzo, disculpati. Ah, io magari che sia stato un in la stagione. Ma lui? Ehi, il video dello stadio mi ha mandato. Avevo la partita, era. Avevo il derby. Io sono preoccupato, io sono preoccupato. avvicinate? Tappignato? Esce bene il Lucremio più 5, esce molto bene, sono solo che ce l'ha attaccato, però esce bene. Esce bene, esce bene. Tu esce meglio col presidente del più 4 di questa, è molto più forte e più squillante, però anche questa già va bene. E tu trattavi un momento di piatti, la modulazione già è bella, la usa di una frutta. Il problema, ti ripeto, quando c'è l'antenna grande gli arrivi un bel forte a Marco, un bel forte. Anche qua arriverai molto forte, perché se i 9.5 con l'antenna della macchina, 4 conto, arrivo a guadagnare a 320 dB minimo. Se non qualcosa in più pure, perché arrivi quasi 9.10 quando si è a 20 watt, quindi senti con l'antenna della macchina però me. Arrivi da 7 a 9 agli punti con l'antenna della macchina, una buona zona quella, è una buona zona, lo so perché la conosco quella zona lì, va bene, molto bene. Se tu consideri che Marco dalla via del 30 è 9.30, grande attacca a Giumare di Cantalesio, il segnale più alto che ho a lunga distanza, insomma, quindi distante, la veloce mi arriva il segnale più alto 9.20, 9.25, non di più. Ah no, cioè, tu mi arrivi quando sei a massima potenza con l'antenna che c'hai adesso, mi arrivi quando arrivi Graziano con la mappa. Se riusciamo a tirarla più in alto possibile, io penso che un segnale tuyo è uno dei più alti, sono sicuro al 100%, guarda. Mi arriva leggermente più basso di te, 9, tu lo superi 9. Sì, io ecco più forte di te. No, Natalino ti passa, con l'antenna della macchina ti passa a te, 9.5, tu sei 9. Infatti si fa vedere di pari o comprendo un accidente. E adesso guarda un po', guarda il mio segnale, guarda un po', guarda. E la vita dove Natalino non ci arrivi a 9.5, appena appena più alto sì, quando si arriva la potenza, però Natalino ti ricordo che a 10 watt si può a 40 watt arrivi 9.10. Cos'hai detto Natalino? Se mi metto il 3009 qua a casa guai. No, fai nulla il 2009 a casa tua, è sempre la stessa storia, è sempre la stessa potenza, vai. Anzi, io che l'Urano c'è a più watt, deve mettere un amplificatore, ancora nel gruppo esito, un bel BV131, una valvola, un centinaio di watt a casa e in macchina lasciare tutto così come, capito? Tu a casa devi avere un aiutino, se no non andi a lungo, perché quella zona lì è molto chiusa per le zone, per Alghero, per, capite? È molto chiusa, capito? Perché sei proprio all'interno, se fossi stato sopra di dire la cantonina dei bidreati, allora non aveva mai fatto vedere, sono un tisci forte da lì, dice Coso, senti sempre salti. Che ci fosse una sigaretta a bocca giurata. Che indichetti, Antonetto? Ma non volevo più. Sarò ben cosa io dico. Tu immagini quando parlava Antonello da lì, perché c'è l'officina e abita lì, lo so che abita lì, perché ci sono fatto un sacco di volte. Quando parlava Antonello qui a casa mi arrivava 9.10, 9 più 10, senza nulla, solo un baracchino, 9 più 10, perché tu più in alto la collinetta la prendo in pieno. A te non ti vedo sicuramente, però linea d'aria, insomma, siamo a vista ottica, ma l'antenna non la vedo perché è molto giù la tua, capito? Quindi da lì tu, per arrivare bene ad Alghero, per arrivare bene a tre parti, ma io Dio, sei quanta euro vuoi legnare lì? Ce l'ho io sotto mano, un amico che lo sta vendendo, bellissimo, e non è neanche grande, è un legnare, però è a 2.20, capito? Una valvola, 131 della ZG. Nuovo, nuovo, il Moisio da 5-10 watt d'ingresso, quindi si è a posto, tutte le baracchine che c'hai tu, eroga intorno ai 100-120 watt, ma vediamo in 10 voci, minimo da 9 e passi a 9-10. No, io devo solamente tirare sull'antenna, poi vedi come cambia. E allora organizza, devi, facciamo lavoro all'altalino, poi quando vuoi, scendo, capito, Massimiliano, e la tiriamo su, se hai bisogno di qualche palo in più, ne ho io di palo, capito? Adesso a tempo buono, ci mettiamo una domenica mattina, un sabato mattina, quando vuoi, oggi, basta che frusci, la tiriamo su come cristiani, più alta possibile, se è quello il problema, e siamo a curi. Sì, adesso vediamo un po' come mi dà l'antenna quello là, mettiamo l'altra. Aspetta un attimo, ok, che facciamo una cosa con te. Gappa. E via, quando tira la mantova, fai un fluscio, non che unisce, te la conservi, e ci mettiamo la mantova, la tiriamo su. E tu non hai problemi. Così non caghi più i gamasicchi. Ma domani, lunedì ci sarà Montalbano a Natale. Sì che c'è! Ah c'è, anche se è festa c'è. Ah, ma già vedo la garganella. Per carità, è tonto. Cattiamo c'è la Brianna sicuro il gatto. Mi scusasse così per lei, c'è la farina di tuo nonno, Sant'Antonio mio. Quello fa una faccia allucinante. E allora, cosa è oggetto? Quello fa una faccia allucinante, tu hai saputo fare quella parte. Ehi, ehi, ma io l'ho visto in una trasmissione, ospite, e parla proprio siciliano, capito? Parla siciliano, però parla normalmente. Lì è proprio troppo comico. Troppo comico, mi va di dove parliamo. E se no mi dico legale, Natalia. È un grande cornuto. E siamo magna, che c'è un medico legale, eh? Ma visto lì la portata, che c'è la magna dei cannoli, la fuga in vita. Ehi, c'è magna che c'è. E vabbè, faccio bene, anche con la colazione. Non bisogna disturbarlo, ha detto la moglie quando sta facendo colazione, perché diventa nervoso. Sui macaroni mancavano, ecco la zia, non è che va via tutto. Io non capisco che sono in vieni qua alle 8 del mattino, rompermi i capasisi. Montalbano lì è un grandissimo corrotto. Allora, dottore, mi scusasse, dottore. Il vice commissario, è tipo che fiacchino, visto. Non ti dici che entra nel commissariato ci si può fare. Vabbè, Montalbano. Adesso appena termina Montalbano, o forse sì, lo stesso quello appunto il regista lì di Montalbano ha fatto l'altro, maltese, con Stewart, come si chiama? Rocky Stewart, molto bello anche quello. Che ha scritto Montalbano. Sì, infatti. Lo stesso scrittore, quello lì. Stewart, non metto esempio, non metto il nome. Come si dice? Perché... Kim Rossi Stewart. Comunque, non Camilleri, mia moglie dice. Il regista che ha fatto Montalbano, non che ha scritto, perché Camilleri ha scritto. Poi il regista, questo regista qua, non mi ricordo il nome, ha prodotto Montalbano il film. Lo stesso regista che ha fatto Montalbano ha fatto anche quello maltese. Sì, infatti è il regista. Lo scrittore e poi il regista, anche c'è l'altro, che ha fatto appunto il commissario maltese. Il produttore, dico il produttore del commissario Montalbano, lo stesso produttore, è molto bello. È molto bello perché quello è un bravissimo attore, capito? Noi venerdì me la mettendo a Gabriel Gallo. non lo rispetto, ma subito vedere come finisce perché c'è l'ultima puntata venerdì. Lo sai, stava morendo quello lì, poi a un certo punto si è morto, stava morendo, era più di vita e poi si è ripreso. E chi? Chimerosi Stewart. Oh, ah. sì, l'avevo sentito, sì. Diceva, allora, se si riprendeva rimaneva a rotelle, e invece hai visto? Oggi, la visione di là, ho venuto da avanti. Beh, ragazzi, io vado a papai, ok? Statemi bene, ci sentiamo domani, vi auguro buona Pasqua per domani, comunque, ci aggiorniamo alla radio, dai, ok? Ciao a tutti, anche quelli che stanno ascoltando, buona Pasqua a tutti. E ci sentiamo, vado a papai, ciao! Ciao cari, ti dico e buona Pasqua a te, famiglia e tutte cose, ciao ciao, a domani. Ciao Natalie, che parlo più anch'io se mi senti, ciao e buona Pasqua a te, a tua moglie e tutte cose, a seguito, ciao! Ehi, ciao a tutti e due, buonanotte e a domani, ciao! Dire che sto chiudendo, solo mi sente, grazie. Già ti ha sentito, ti ha anche risposto, buona Pasqua anche a te famiglia. Ehi, ciao, ciao a tutti, ciao.